sopra il dorso di una roccia tu sei scivolata via. Non chiamarmi, non seguirmi, so che tutto questo potrebbe essere anche causa mia. Sono stato attento nei miei passi e nelle scelte come non lo sei mai stata tu. Per scontato ormai è più giusto che le nuove.